English Bit di Giulia Crivelli. Expose. Global epidemic exposes the dark side of gig working. Tra i molti approfondimenti che Financial Times ha dedicato all'emergenza da coronavirus c'è questo. L'epidemia globale fa emergere il lato oscuro della gig economy. La prima parola che ci interessa è gig. Originariamente significava sketch improvvisato o breve performance musicale, in genere di jazz, di fronte a audience non troppo grandi. Poi, sarebbe interessante sapere chi ebbe l'idea, gig working e gig economy è diventata quella che in italiano chiamiamo l'economia dei lavoretti. La seconda parola che ci interessa è il verbo to expose, regolare. Un false friend, perché non significa esporre, ma mostrare, nel senso quasi di dimostrare, svelare, rivelare. Significa cioè far vedere qualcosa che fino a quel momento era rimasto nascosto. He smiles suddenly, exposing a set of amazingly white teeth. Sorrise all'improvviso, mostrando una dentatura incredibilmente bianca. My job as a journalist is to expose the truth. Come giornalista, il mio lavoro è quello di far emergere la verità. He did not want to expose his fears and insecurity to anyone. Non voleva mostrare le sue paure e la sua insicurezza a chi che sia. Con una sfumatura diversa si può dire «We want to expose the kids to as much art as possible». Vogliamo far entrare i bambini in contatto con quante più opere d'arte possibile. «To exhibit», regolare, è invece una traduzione corretta del nostro «esporre». «He exhibits regularly in local art galleries». Espone regolarmente in alcune gallerie della zona. Exhibition è la mostra. Have you seen the Picasso exhibition? Hai visto la mostra dedicata a Picasso? Tornando all'articolo di Financial Times, notiamo l'aggettivo dark, che significa scuro, oscuro, misterioso. The dark room è la camera oscura. To get dark significa imbrunire. Even if you have dark skin, you still need protection. Anche se hai la pelle scura, hai bisogno di una crema protettiva. There are no dark secrets in our family. Non ci sono oscuri segreti nella nostra famiglia. The film is a dark vision of the future. Il film offre una visione cupa del futuro. To be kept in the dark significa essere tenuti all'oscuro, in senso figurato, come in italiano. Dark chocolate è il cioccolato fondente. To darken, regolare, è il verbo. Her mood darkened at the news. Il suo umore si fece nero quando sentì le notizie.